programma. Inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. In cosa dobbiamo credere? Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questa settimana io mi sono posta più volte questa domanda. In cosa ancora possiamo credere? Ci sono stati degli eventi sconvolgenti, è stata una settimana incredibile, diciamo, non c'è bisogno che io lo dica a voi, però ricordiamoci, cioè, sapete qua il sabato è sempre il nostro momento per confrontarci, per raccontarci un po' quello che è successo e quello che ci ha colpito di più. Ma in cosa veramente dobbiamo credere? Ci sono stati due eventi sconvolgenti in particolare. Da una parte, il Papa che si dimette, verrebbe a dire per la prima volta nella storia, in realtà è 600 anni che non succede, Celestino V e poi altri tre dopo di lui, però questo è effettivamente un evento che ha sconvolto moltissimo, perché si pensava che fosse veramente, forse, l'unico ruolo non a termine in una società di grande precarietà, no? Di contratti a termine, di cose che finiscono così molto brevemente, molto effimere. Ecco, questo io devo dire che è stato da molti criticato, che molti sono rimasti sconcertati. Io, anche se è un evento epocale, lo ritengo un gesto di libertà e di coraggio. E comunque è una cosa che, insomma, rispetto ai nostri cani, alle nostre certezze, butta tutto per aria. L'altro fatto, che a me in realtà mi sembrerà forse superficiale, non lo so, a me sconvolge di più, a proposito di poter credere in qualcosa, è così, laicamente, aver bisogno di avere anche dei punti di riferimento tra gli esseri umani molto terreni, no? La vicenda di Pistorius. Una specie di mito in terra, perché, diciamo, una figura come quella di Pistorius, con la sua storia, dà così la speranza non solo ai disabili, ma anche alle altre persone, che ci sia sempre un modo alla fine per riuscire a superare le difficoltà, i momenti, le tragedie, i momenti difficili. Pensare, ecco, avere nei momenti difficili magari un riferimento come lui, come è stato fino a poco tempo fa, e dire: vabbè, insomma, me la prendo per questa cosa qui, ma c'è, guarda chi riesce a fare certe cose con certe difficoltà, guarda che cosa riesce a fare. E invece io spero, naturalmente non si possono fare i processi prima del tempo, gli indizi in realtà sembrano molti, sembra che fosse uno, insomma, che di incidenti, diciamo, di violenze domestiche ne avesse già fatte, aveva le sue ossessioni, le sue manie. Io voglio solo sperare che Pistorius non sia uguale, che sia unico e non sia invece uguale a milioni di uomini nel mondo, un vile, volgarissimo, vigliacco, picchiatore di donne e uccisore di donne, come continua ad esserci anche in Italia ogni 2-3 giorni. Ecco, io voglio sperare in questo, credo che sia una speranza piuttosto vana, speriamo che non sia questo, perché sennò veramente ci crolla tutto. E allora, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, dopo queste riflessioni vi ricordo il numero verde per i vostri interventi, liberissimi con le vostre opinioni, prima di presentare un ospite straordinario, opinionista estemporaneo che ho qui oggi, 800 24 00 24, numero verde, quindi non solo gratuito ma anche ecologico, perché evitate di disperdere inutilmente nell'ambiente energie, tempo, risorse, pensieri. Convogliate il qui e non ci sono più le mezze stagioni, 800 24 00 24. Quindi le notizie, diciamo, le due principali ve le ho già dette, e quindi se volete ritornarci fatelo con molta libertà. Ve ne ricordo brevissimamente altre. Beh, questa pioggia di meteoriti ieri in Russia, tra gli eventi incredibili di questa settimana, ce la ricorderemo a lungo. E poi tutta questa sequela, ecco, riprendo qua tutte le inchieste di questa settimana, Finmeccanica decapitata, l'affare Monte Paschi di Siena che continua, insomma, a sprigionare novità, i conti di Formigoni, che è stato inquisito per associazione per delinquere e corruzione, l'arresto di Cellino del Cagliari, l'arresto di Angelo Rizzoli, ex editore, ora imprenditore, per bancarotta fraudolenta, i misteri del finanziere Proto, che mi ricorda un po' uno di quei arrampicatori e furbetti del quartierino, e voleva comprarsi la 7, Corriere della Sera, varie altre cose, insomma, manipolando il mercato. Poi, quali altre cose? Beh, intanto in Siria continua la carneficina, naturalmente, sotto gli occhi della comunità internazionale, la giornata mondiale contro la violenza alle donne, che c'è stata giovedì. È stato un grandissimo evento planetario, questo ballo di tutte le donne nelle piazze, dall'Afghanistan, pensate, alla Groenlandia, per ricordare proprio nel giorno di San Valentino violenze su milioni di donne in tutti i paesi, abbiamo detto anche in Italia. E allora andiamo subito, però, come sempre, al nostro rito immancabile, che è quello che ci fa dire che effettivamente non ci sono più le mezze stagioni. Non ci saranno più le mezze stagioni, ma neanche le intere, sono un granché. Beh, allora, due grandi, enormi, epocali fatti che dimostrano che non ci sono più le mezze stagioni, quelli sono davanti agli occhi di tutti, abbiamo detto il Papa soprattutto, ma anche un mito che crolla in questo modo come Pistorius. Però io vado sempre a cercarvi, lo sapete, delle cose molto così un po' diciamo meno in vista. Ecco, hanno sempre detto che gli italiani le lingue non sanno manco cosa sia, cioè hanno proprio difficoltà gli italiani a scuola e poi in seguito a imparare le lingue. Ebbene, sapete chi sono i peggiori in Europa nelle lingue a scuola e poi anche per il resto? Volete sapere? Ci tenete? Gli inglesi. Come gli inglesi? Proprio loro, la lingua inglese. Ebbene sì, gli studenti inglesi sono i peggiori d'Europa nelle lingue straniere. Liberarono proprio una ricerca internazionale su 16 paesi in Europa e loro, per loro la loro prima lingua è in realtà il francese. Sono scarsissimi, dicono che appena arrivano alla sufficienza. Quindi qualche volta possiamo anche confortarci, diciamo così, facciamoci forte con queste cose. Ma adesso, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ho il piacere di presentarvi l'opinionista estemporaneo di oggi. Andrea De Carlo. Buongiorno, Roberta, caro Andrea. E buongiorno agli ascoltatori. Andrea De Carlo, scrittore amatissimo, amatissimo molto dalle donne, perché io ogni volta che lo vedo, Andrea, io dico, ma insomma, secondo me il lifting non se lo alzo bene per l'emozione, un goccio di whisky ci vuole a quest'ora, ma è sempre bellissimo, così mi rifaccio un po' gli occhi, visto che si parla delle belle donne, così, parliamo Roberta. Anche, come dire così? Caro, pensate che Andrea De Carlo è passato col suo libro, nuovo libro, è venuto a trovarmi qui in studio, proprio, è voluto venire. Sì, era un po' di tempo che non ci vedevamo, ero molto curioso di vedere il tuo nuovo studio e mi fa molto piacere ritrovarti. Ma quello che ti volevo chiedere, visto che sei venuto, Andrea De Carlo, tu quante volte vieni? Che roba terribile. Sì. Sai che ho visto quella cosa su YouTube e veramente pensavo che proprio non c'è limite alla volgarità, all'idiozia. Forse la cosa che era ancora più offensiva erano le risate degli uomini nella sala e la cosa addirittura oltraggiosa nei confronti dell'intelligenza, oltre che della signora coinvolta in questa oscena esibizione, è stato il comunicato falso del giorno dopo della sua azienda, in cui la signora veniva definita non solo non offesa, ma addirittura onorata. Finché ha dovuto da sola spiegare con una lettera a un giornale che era ovviamente offesa come donna. Sono imbarazzata e sembra che il suo capo, che è comunque candidato per il PDL, abbia detto: beh, allora se si sente imbarazzata ne trarremo le dovute conseguenze. Certo. Cosa vorrà dire questa frase? Dopo aver tessuto le sue lodi quando invece la definiva onorata, no? Orrendo episodio. 800 24 00 24. A proposito invece, ecco, uno scrittore, no, come te, che osserva, ci sono quelli che sono proprio chiusi un po' nel loro mondo, nelle loro elucubrazioni, nella loro ricerca di emozioni. Tu sei uno di quegli scrittori che è piuttosto aperto, attento alle cose che succedono intorno. Tu, quando hai avuto saputo questa notizia del Papa, che cosa hai pensato? Beh, all'inizio ho pensato che fosse uno scherzo, come credo tutti. Eravamo sotto carnevale, quindi pensavo. Poi ho avuto un'oscillazione fra pensare, beh, caspita, forse un gesto anche di grande libertà intellettuale, di coraggio. Poi però devo dire, ho assistito a una sequela di esegeti e giustificatori che spiegavano istantaneamente, cioè quindi senza aver nemmeno avuto il tempo di riflettere su un evento colossale, spiegavano che era appunto un gesto rivoluzionario, straordinario, profondissimo, subito, in automatico. E poi dopo un po' però ripensandoci ho detto, ma scusa, se il tuo datore di lavoro è Dio, perché il Papa è quello, è l'intermediario tra Dio e gli uomini, semplicemente, secondo me, l'opzione di dimetterti non ce l'hai. La mia sensazione è un po', lo dico da non cattolico, perché non sono cattolico, ma da persona che rispetta profondamente la ricerca spirituale in qualunque forma, ho avuto un po' la sensazione che sia stato un po' il gesto del capitano che salta dalla nave. Uno schettino tedesco, più sottile intellettualmente. E però il gesto, cioè se io fossi un fedele, credente, cattolico che guarda al Papa come a un riferimento assoluto, cercando di trarne delle linee guida di comportamento, di direzione morale, sarei totalmente sconcertato. Cioè non voglio pensare a chi oggi in questo periodo si trova veramente in assenza di un riferimento, cioè di fronte a un Papa che ritorna uomo e se ne va. È molto strana. Ti devo dire, è molto interessante la tua interpretazione anche del datore di lavoro. Vorrei sapere anche voi ascoltatrici e ascoltatori, visto che è una cosa grossa, diciamo, non è una delle tante notizie sulle quali sì, si può avere la propria opinione, però ci sono anche moltissime riflessioni sulla pagina Facebook di Non ci sono più le mezze stagioni, se volete continuare a farle. E la pensiamo diversa io e Andrea De Carlo. Voi come all'800240024, nel senso che invece per me, vedi Andrea, io devo dirlo sinceramente, ma chi mi ascolta da tempo lo sa, non ho mai avuto particolare entusiasmo per questo Papa, che ho sempre ritenuto molto molto conservatore. La Chiesa può fare di più, può essere più accogliente, molto più aperta un po' verso tutti, invece l'ho trovato piuttosto retrivo, anche freddo nella figura, mentre non so, il mio Papa di riferimento è Papa Luciani, quindi immagina sì, no, che mondi completamente opposti. Papa Luciani, sì. E poi con anche l'apertura che aveva non solo come figura, ma voleva aprire anche al prima poi al sacerdozio femminile, diceva che Dio è prima madre poi padre, voleva fare totale pulizia negli oiori, nelle gerarchie ecclesiastiche, certo. Insomma, era... E anche lì ci sarebbe, e poi la faccenda è stata chiusa e archiviata, però resta il fatto di questo Papa non apparentemente malato, con grandi intenzioni rivoluzionarie dentro la Chiesa, che muore così, dopo 33 giorni, dopo, Papa dopo poco più di un mese. E la faccenda poi è stata dimenticata, rimossa, però insomma resta lì. Sì, resta lì sospeso, e insomma, questo è il mio Papa. Diciamo, quindi non ho mai provato entusiasmo per Benedetto XVI, però al contrario di Andrea De Carlo, penso invece che effettivamente è stata una scelta di libertà e di coraggio, perché tu sei Papa. Tu quando sei arrivato al massimo livello, no, anche mondiale, non soltanto nella Chiesa Cattolica, insomma, più in alto di così, a parte il presidente americano, ma questa è una figura spirituale, quindi anche diciamo, un coté metafisico. Certo. E tu vorresti a quel punto morire in quel ruolo, perché ci sono arrivato così in alto che io non scendo. Invece diciamo che è andato un po' contro la tradizione della Chiesa, quello che tutti si aspettavano, le aspettative, certe regole, anche se è previsto comunque in casi diciamo di estrema emergenza potersi dimettere anche da Papa. Lui l'ha fatto, quindi diciamo in barba tra virgolette a tutto questo, ma anche a volte rispetto a una spinta interiore personale, no? Quando si ha l'ambizione, anche chi diventa Papa deve avere l'ambizione di diventarlo, anche per diventare cardinale, eccetera, eccetera. Invece liberarsi di questa schiavitù di essere per forza qualcuno di importantissimo, che non è facile. Lo so. Però scusa, non trovi che uno... Cioè, in realtà, se poi sei Papa, tu hai una responsabilità immensa nei confronti di milioni ma di persone. Ma se non ti senti all'altezza, riconosci ma anche, altro gesto subito di coraggio, riconosco di non essere all'altezza. Ma non dovresti farlo come nel film di Moretti, allora, che appena nominato Papa, quello ma lui dice forse no, io non me la sento. Ha pensato per un po' di farsi, ha poi visto gli intrighi, i tradimenti, diciamo queste trame ben poco metafisiche, molto terrene dentro, e in più forse anche diciamo il peso degli anni, che non sono pochi. Però sentiamo tra pochissimo ascoltatrici e ascoltatori cosa ne pensano. Numero certo. Verde 800 24 00 24. Prima che Pietro La Corte mi guardi con cipiglio, perché abbiamo gli aggiornamenti per chi viaggia, vorrei sentire la sentiamo Anna da Prato, giusto Anna? Anna? Sì, pronto? Eccoci qua Anna. Senta, no, io volevo parlare per un altro problema, volevo parlare per i giovani, per quanto riguardava le votazioni che ci saranno. Sì. Che hanno un po' di problemi per quanto riguarda il viaggio da fare per le votazioni. Quelli che stanno facendo l'Erasmus all'estero, esatto, stanno studiando con l'università. E quindi molte volte ci tocca a noi genitori sostenere dei costi abbastanza notevoli per una cosa che dovrebbe essere anche favorita dallo Stato, perché questi ragazzi si hanno vinto delle borse di studio e hanno vinto la graduatoria dell'Erasmus. Sono anche meritevoli, male, vogliamo dire. Avrebbero no? Anche dei diritti, ecco. Mm. Ma tutto rientra nel discorso anche del Papa, di tutto il resto, perché la nostra nazione si può dire che attualmente è una nazione oltre la decadenza, non so cosa ci potrebbe essere. Non so. Anna, senti, tu hai dei figli quindi all'estero che volevi far rientrare per votare? Uno all'estero, una qui che studia. Perché pare che si perdano in questo modo, leggevo tempo fa, adesso i numeri con la memoria, sui 20.000 no, voti, non sono sì, mica sì, pochi. Sì, infatti, anche questo non è interesse di nessuno. Il Ministero ecco dell'Interno ha detto che non è possibile. Non è non possibile. Ci avevo che non pensato, è possibile, forse quindi... Dice Andrea De Carlo, forse non ci avevano neanche pensato. È arrivato no, non ci hanno neanche pensato, perché tanto oramai diciamo le famiglie diventano sempre più povere, anche solo per esprimere e cercare di mantenere i propri valori che ci trasmettiamo ai figli. Anche il senso civico di votare. È un senso come, non so, il Don Quixote, andiamo contro i mulini al vento. Perché... Quanti mulini, cara Anna. E oggi c'è anche un po' di vento a Milano. Anna, io ti ringrazio, capisco la tua amarezza. Adesso Andrea De Carlo, scrittore che con libri che sono stati pubblicati, tradotti, continuano ad essere tradotti in 26 paesi nel mondo, e quest'ultimo si intitola Villa Metafora, e devo dire che a parte una garanzia naturalmente essendo un libro di De Carlo, ma può essere anche molto utile. Io me lo porto da quando l'ho avuto sempre sotto il braccio la notte quando torno a casa, no, dal lavoro, spesso lavoro di notte, come arma di difesa. È un volume talmente cospicuo e consistente che questo, io mi sento sicura quando ce l'ho sotto il braccio, perché se questo lo tiri in testa a qualcuno, puoi fargli male, il danno glielo fai, ma anche solo se glielo lasci cadere sul piede così, no, dall'alto verso il basso, è una roba. Senti Andrea, questo libro davvero ci hai messo tanto del tuo lavoro, dei tuoi racconti, sono tanti punti di vista, no? Di personaggi che si convogliano in questo libro e su questa isola del Mediterraneo. E, tra l'altro, tu in questi giorni sei andato anche in giro a recitare il tuo libro con le voci di tutti i personaggi. Io poi dopo ti voglio fare. Sì, fra l'altro, ti voglio far fare. Ah, se qualcuno è curioso, sul mio sito, che è andreadecarlo.com, nella pagina audio video ci sono i link a YouTube, sì? Dove ci sono alcune di queste letture. Poi ne farò altre, per cui ci saranno tutti i 14 personaggi, tutto il cast completo con i suoi toni, i suoi accenti, eccetera. Allora, io vorrei, prima di sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori, che tu mi commentassi queste due notizie, una delle due quale preferisci, con la voce della giornalista francese. Allora, Berlusconi dice che una delle prime cose che farà se sarà eletto è il ponte sullo Stretto di Messina, che naturalmente, immagino, il momento di crisi tutti aspettiamo, e poi dice Monti non sa l'economia e dice Veronica spende 100.000 euro al giorno, insomma, beata lei. Invece Bersani subito sui diritti gay dice sulla pagina del Corriere: faremo una legge sull'omofobia in 6 mesi. Vediamo un po' se effettivamente questi tempi, poi, se dovesse essere eletto Bersani il PD, saranno rispettati. Se tu dovessi fare la tua uno dei personaggi, 14 personaggi, la giornalista francese. Beh, questa Simone Poulenc, che è un intellettuale francese molto. Cosa vuoi commentare? Lavora per la Libération e non ha molta simpatia per Monsieur Berlusconi. Nella storia, in Villa Metafora, c'è un primo ministro che si chiama Buscaratti, un ex primo ministro che si chiama Buscaratti, che assomiglia molto, non solo per l'iniziale del cognome, a Berlusconi, e direbbe: questo è proprio un mitomane che vuole lasciare a tutti i costi un segno come un nuovo faraone. E l'idea di lasciare questo ponte sullo stretto, di cui nessun italiano sente la necessità quando ci sono miliardi di cose più urgenti da fare, è proprio indicativo di questo, secondo me. Allora, invece di Bersani, che cosa direbbe questa giornalista francese? Ah, Bersani è un uomo che forse recita un po' la parte dell'uomo semplice, dell'uomo con le maniche tirate su, la camicia un po' così, ragazzi, con cui ci si può identificare, perché non mette soggezione, non mette, ecco, è un po' questo il suo ruolo. Avrei preferito che al suo posto ci fosse Renzi, ma pazienza, le cose non sono andate così. No, io un sacco di persone ho sentito da personaggi famosi con questa simpatia per Renzi. Secondo me, poi, che lo si appoggi o non si appoggi Renzi, si condivide eccetera, è sicuramente un leader del futuro molto molto prossimo. E cominciamo a sentire le ascoltatrici e gli ascoltatori al numero verde 800 24 00 24. Abbiamo sentito Anna prima, ma c'è Fabio da Salerno. Fabio. Sì, Roberta, buonasera. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio a te Fabio. Buon pranzo. Niente, io volevo dire una cosa riguardo al accennare al Papa, però riguarda più che altro ciò che è successo in Russia. Sì. Il Papa, il fatto che abbia lasciato il suo ministero è sicuramente per noi cattolici comunque un momento di confusione, però poi letta bene potrebbe essere anche un segno profetico per la Chiesa e anche un'apertura all'ecumenismo, perché comunque, ecco, riconosce che il primato di Pietro non è poi più così forte al punto da dover dividere le chiese, ma è un primato di Pietro che però è funzionale alla storia della Chiesa, funzionale ai problemi, funzionale ad altro. Però quello che più mi ha sconvolto in questa settimana, sinceramente, perché mi sono ripreso dall'avvenimento del Papa, è il vedere come in Russia possa essere caduto un asteroide, aver fatto tante vittime senza un preavviso. Feriti noi per fortuna, 1200 feriti, certo, anche essere feriti, più che altro da queste schegge di vetro, no? Che sì. Ho visto tanti bambini con i visi, con i taglietti che gli hanno dovuto levare con le pinzette. Per fortuna morti, per il momento, spero poi non ce ne sono stati. Però Fabio, potrebbe essere visto come una specie di segnale apocalittico. No? Tu dici, Andrea, lui c'ha la fantasia dello scrittore. Beh, accidenti, un asteroide non cade tutti i giorni. Io invece sono molto su queste cose, molto super scettica, molto razionale, seppure anche con grande attenzione all'emotività, Fabio. Quindi tu dici che come Andrea potrebbe essere, oppure dicevi no, invece di prevedere con tutte le ricerche, gli studi che si fanno, tu lo dicevi dal punto di vista scientifico, Fabio, di prevenzione? Sì, dal punto di vista di una previsione, non come segno di un apocalisse, no, ci mancherebbe. Dal punto di vista della capacità nostra oramai di società tecnologica evoluta di poter prevedere un evento del genere. Insomma, ecco, questo certo, è questo mi ha un attimino più destabilizzato. Che nessun astronomo avesse previsto, certo. Putin si è arrabbiato moltissimo, adesso non so chi metterà in carcere, chi taglierà la testa, però non vedremo se troverà un capro espiatorio. Fabio, quindi invece di Pistorius cosa pensi? Mi incuriosisce. Ma non sei colpevole, innocente, ma che impressioni ti ha fatto questa notizia, che anche questa è piombata nell'immaginario collettivo, così altro come un asteroide anche questo alla fine? Decisamente sono fatti tutti quanti che colpiscono la sensibilità di ciascuno di noi, però quello che mi ha lasciato molto colpire di Pistorius, innocente o colpevole non lo potremo sapere, lo sapremo dopo, sì. Però ecco il fatto che io guardo l'umanità di questa persona, se veramente sono partiti da lui i colpi per un motivo o per un altro, ecco, come si possa così poi distruggere in un attimo il lavoro di una vita, due famiglie intere, due vite, ecco, rendersi conto che effettivamente per quanti obiettivi possiamo raggiungere a livello umano, professionale, basta un attimo di incertezza, un attimo di perdita di consapevolezza, ecco, di lume, di razionalità, per veramente arrivare a distruggersi una vita, una carriera, oltre che fare del male, naturalmente uccidere una persona. Quindi ecco il senso di finitezza, tutte cose che mi danno proprio queste tre cose, questi tre avvenimenti, il senso della finitezza, della piccolezza dell'essere umano. Cioè è inutile diventare grandi, vogliamo parlare dei politici, posso far questo, posso far quello, vi risistemo l'economia, giudico tutti, non parliamo di, cioè non sentiamoci così grandi e infiniti e raggiunti, insomma, voglio dire, abbiamo veramente tante cose da scoprire di noi stessi. Questa finitezza, questa incapacità di poter governare sempre e comunque tutto ciò che ci accade. Ti ringrazio, Fabio. È una riflessione importante. Ti ringrazio, Fabio, delle tue riflessioni. E tra l'altro, a proposito poi di femminicidi, di omicidi, l'ONU ha detto che in Italia il femminicidio, che avviene ogni 2-3 giorni da parte di mariti, ex mariti, fidanzati, ex fidanzati, è un crimine di Stato, perché in Italia, dice l'ONU, non si fa praticamente nulla per prevenirlo. E tra l'altro è morta proprio il giorno di San Valentino, anche il giorno in cui è stata uccisa, in cui Pistorius ha ucciso la sua fidanzata, Giuseppina, a Napoli. Il marito, cioè dopo 3 giorni di agonia, il marito l'era passata, l'aveva investita con l'auto per farla fuori, poi non contento le ha dato fuoco, dice, ma è qui un po', magari se la cava dopo che l'ho investita, le ha dato fuoco, è morta dopo 3 giorni, giusto così, no? Per darci un'idea di come vanno le cose. Prima di un collegamento con, voi sapete, l'unica trasmissione al mondo questa, con un collegamento con un altro pianeta che Pietro Lacorte sta preparando col satellitare, lì molto complesso, e c'è anche Alice Cosilli ai telefoni bollentissimi, e sentiamo Francesco da Torino e poi questo collegamento marziano, sì. Francesco? Sì, sì, eccomi, buongiorno. Buongiorno a te, Francesco. Volevo tornare un attimo sulla questione del Papa, perché io non sono cattolico, però le sue dimissioni mi hanno colpito moltissimo. Io mi immagino che il Papa era sempre stato un gradino al di sopra dell'uomo comune, no? Ammantato di una certa aura di santità quasi, e il fatto stesso che sia dimesso, che sia tornato ad essere un uomo normale, mi fa dire, ma se persino il Papa si dimette, come fa l'uomo comune pieno di problemi e sofferenze a tirare avanti? Ecco, arriveremo che i bambini non avranno più regali a Natale perché il Babbo Natale si è dimesso, non so. Francesco, ma Babbo Natale secondo me quello non si dimette perché fa girare l'economia, quindi è probabile che anche in momenti di austerità qualcosina salta fuori con Babbo Natale. Capisco, Francesco, il tuo stato d'animo e posso dire con piena cognizione e a piena ragione, non ci sono più le mezze stagioni. Diciamo, io quando scelsi questo titolo già anni fa capivo che le cose cambiavano, già prevedevo in qualche modo, insomma, prima o poi anche il Papa. Ma questa settimana questa proprio rappresenta benissimo. E anche Pistorius, di Pistorius che cosa? Pistorius anche ho trovato, perché giustamente è fatto bene a combinare queste due notizie su due piani così diverse, ma che hanno sconvolto credo tutti in modo, per ragioni diverse, ma con altrettanta intensità. Perché riferimenti Pistorius, che saltano proprio. Pistorius era il simbolo al contrario di una figura privata, totalmente privata, un giovane che nasce senza gambe e che riesce malgrado questo a superare non solo il suo handicap fisico e quindi a correre, ma anche tutti gli ostacoli spaventosi della burocrazia, perché mi ricordo che non il comitato olimpico non lo voleva, lo volevano confinare nelle paraolimpiadi. Quindi c'era anche come una lotta civile di affermazione di diritti, ed era un individuo che potevi immaginarti, una persona splendida, te lo potevi immaginare. Non certo quello che pare stia trapelando adesso, cioè il paranoico, amante delle armi e purtroppo appunto violento nei confronti delle donne, perché pare che questo episodio sia stato preceduto da una serie di maltrattamenti vari. Quindi una persona orribile se fosse confermato che è così. E certo, e ti fa proprio dire non ci sono più le mezze stagioni, sentire cose del genere. E su questa quasi conclusione, prima della pausa, vorrei sentire, perché il collegamento satellitare lo facciamo, mi pare, sì, della seconda metà, dopo la pausa, perché sapete, a volte con Marte non è che diciamo i collegamenti, no? A volte già con i cellulari sono difficili. Fabio da Pisa. Fabio? Sì, buongiorno. Buongiorno a te, Fabio. Come andiamo? Dimmi una cosa, Fabio, scusa, come andiamo con la torre? Perché qui vediamo se riprendo questo trafiletto. L'Economist, sai, il settimanale inglese, in questa settimana in edicola, ha la Torre di Pisa in copertina e dice: chi può salvare l'Italia? E c'è la torre, si capisce un po', no, naturalmente pendente, anche il paese pare piuttosto in equilibrio precario. Come va la torre, regge? Fabio? La torre regge, per ora è stabile. Sì. Molto bene. Dopo gli ultimi interventi, diciamo che è stabile. E questa è una scelta per il momento. Per l'asteroide, anzi sì. Gli asteroidi. Sì. Perché oltre a quello che è caduto in Russia, un altro è passato ieri. Lo stesso giorno è passato, peraltro previsto, peraltro... A 26.000 chilometri qualcosa. Però quello che ci raccontano gli scienziati, ai quali dobbiamo credere, non dobbiamo credere, non c'è attinenza fra i due. Strano che siano caduti tutti e due lo stesso giorno, uno previsto, l'altro meno. A volte le coincidenze, sai com'è, Fabio? Può succedere, per carità. Ma è una coincidenza strana, perché io di asteroidi i filmati oggi li fanno tutti perché tutti hanno un telefonino, però... di asteroidi che cadono, non è che mi cadono uno un giorno sì, un giorno no. Ma sì, può darsi che sia stata una... vogliamo... Non abbia nessuna attinenza, a me mi lascia proprio perplesso. Quindi vogliamo... cosa pensi? Che forse lo sapevano gli astronomi, ma non volevano dirlo? C'è della dietrologia anche dietro gli asteroidi, non ne usciamo più. O forse sono incompetenti. Un complotto internazionale. Esatto. Mi sembrerebbe di cadere nel complottismo. No, non ne possiamo anche con gli asteroidi, con qualcuno strano, che dai. Organizza tutto. Fabio, ti ringrazio e siamo almeno un po' rassicurati sulla Torre di Pisa. E, devo dire che, diciamo, effettivamente un po' riportata sull'argomento da Francesco, da Torino, sono andata a vedermi i siti e vi comunico, così poi non dite che non l'ho detto, che io e Andrea De Carlo qui non vi abbiamo avvisato. Il prossimo rischio per un asteroide che cadrà vicino alla Terra sarà, attenzione, prendete appunti, nel 2029. Quindi sappiatelo. Quindi avete un po' di tempo. Un po' di tempo per prepararvi. Ecco, quelli che vogliono costruire bunker, no? Come quando c'era la fine del mondo. Siete avvisati. E dunque, prima di sentire Luigi da Bologna, Maurizio da Milano all'800 24 00 24, io direi che forse è il momento di collegarci con un altro pianeta. Riflessioni da Marte. Quanta confusione si è potuta percepire quassù da Marte in questi giorni, osservando col fido telescopio il globo terracqueo. Che caos! Un papa che se n'è andato inaspettatamente in pensione anticipata, una specie di eroe greco, poi quasi mitologico, metà atleta e metà fibra di carbonio, che pare sia invece in realtà, così sosterrebbero gli inquirenti, un qualsiasi abietto macio frustrato molto terreno, bello fuori e brutto dentro. E poi le preoccupazioni per l'industria dell'acciaio, per l'impennarsi improvviso della richiesta di manette a seguito degli incessanti scandali italici e dei conseguenti ingressi a raffica in Gattabuia. E ancora un governatore italico che sarebbe per lungo tempo entrato e uscito da ristoranti di lusso, yacht e resort, lasciando che il conto lo pagassero gli altri, poiché lui del resto ha fatto il voto di povertà. Insomma, gente che va e gente che viene. E sì, soprattutto che viene. Lei viene? Lei viene? Sì. Sì, ma scusi, una volta sola? No, sono due gli impianti. E quante volte viene? Quante volte, quindi? 3, 4, 5, dipende dalle esigenze. E nel via vai, forse De Carlo viene di più, nel via vai anche chi non se ne va proprio mai, diciamo, qualcuno ha sovrapposto le situazioni, sempre in questa grande confusione, e si è chiesto, in tutto questo caos, chi vincerà il Festival di San Pietro? Qualcun altro si è sentito quasi confortato dal fatto che anche il pontefice avesse in fondo un contratto a tempo determinato. Altri ancora giurano di aver sentito che oltre alle tasse qualche politico potrebbe restituire le indulgenze e pure i capelli perduti, ma le tangenti no, quelle sono necessarie. E qualcuno ipotizza che questa volta la fumata bianca proverrà da una sigaretta elettronica. Insomma, in questo psichedelico guazzabuglio generale, per avere un po' di chiarezza viene da pensare, meno male che tra poco si va a votare. Con cura piego le due schede e guardo ancora la matita così perfetta e temperata. Io quasi quasi me la porto via. Democrazia. Andrea De Carlo, che cosa pensi di Grillo che, insomma, se ne stanno dando tutti di santa ragione in questi giorni, anche Monti col suo aplomb, come l'abbiamo conosciuto come Presidente del Consiglio, ha detto che, insomma, ha ereditato una situazione da un governo di cialtroni, una cosa molto pesante. Berlusconi si è arrabbiato non poco. Poi Berlusconi che dice di Grillo è un pericolo per la democrazia, ma è soltanto un magnifico e bravissimo attore e comico. Poi Libero che titola cadono monetine sulla sinistra perché appunto Mussari, ex presidente del Monte dei Paschi di Siena, ieri è andato a questa udienza del processo e gli hanno tirato le monetine. Insomma, se ne tirano di santa ragione. Tu di Grillo che pensi, per esempio? Ma a me all'inizio faceva un effetto molto di grande simpatia e un effetto liberatorio, come credo a molti, sentirgli urlare finalmente la rabbia e sparare a zero su tutto. Tutti gli esponenti di questa infame classe politica che da decenni ci trasciniamo dietro, di cui non ne possiamo più. Credo che la gente che lo segue, insomma, dalle facce che vedo, dalle cose che sento, siano proprio persone simpatiche e giuste, che vogliono una società migliore, più civile, più libera, più aperta, dove ci sia più controllo su chi ha potere. Mi lascia perplesso lui, però, perché c'è qualcosa di oscuro, di opaco. Insomma, già la sola idea che il marchio del movimento sia di sua proprietà personale e che quindi chiunque lavori dentro questo movimento sia come una specie di operatore in franchising, come un po' uno che apre un McDonald's, questo non mi piace per niente. E mi piace ancora meno quell'oscura figura che c'è dietro Grillo, di quel personaggio, quel casaleggio di cui ho visto qualche fotografia, non mi pare convincente come personaggio. Non lo so, ho appunto dei dubbi, mi piacerebbe non averne e vederlo invece come un movimento rivoluzionario che può finalmente spazzare via il marciume che c'è. Ho paura che non sia così semplice. Senti, questo tuo ultimo libro, Villa Metafora, c'è qualche personaggio che vedresti bene a gestire la cosa pubblica? No, ce n'è uno che proprio non vedrei bene per niente, è un politico che si chiama Piero Gomi, che uno di quelle, non ho voluto metterci un mostro o uno di quei grandi mostruosi trafficoni. Un gretto? No. Sì, è un personaggio proprio che affetta umiltà, che si presenta come una persona normale rispetto ai suoi, dice sempre in tutta modestia, perché io del nord, politico del nord, ma che piace anche al centro e anche al sud, la famiglia, i valori, quando poi gli si chiede quali siano questi valori fa un po' fatica a definire. Ma è vero che tutti parlano di valori, è vero che a volte vorrei un elenco, sì, vorrei un elenco preciso di questi valori. Sì, perché poi appunto anche dire la famiglia, sì, la famiglia è un dato di fatto, nel senso che le persone tendono a formare una famiglia, ma non può essere un elemento costituente di una strategia politica, soprattutto per un paese che sta andando in malora come il nostro. Ci vorrebbe forse un piano un po' più articolato, più definito, più lungimirante, anche, più certo, controllabile, più sì, e più concreto. Sì. 800 24 00 24, c'è Luigi da Bologna. Pronto Luigi? Sei un po' indeciso? Luigi, sono qua. Non c'è più neanche Luigi, oltre alle mezze stagioni. Vabbè. Luigi! Chi chiama? Sta parlando con qualcuno in casa mi sua. Mi senti Luigi? Che stai facendo? Stai mettendo a posto i libri? Stai spazzando? Pronto? Si è perso. Lasciamolo lì in attesa, che se si sentisse qualche cosa, qualche intercettazione, lui che corre dietro il gatto, cioè, mi interessa, non mettiamolo giù. Maurizio da Milano. Allora, in merito alla questione di Pistorius, sì, beh, che sia bello, guardi, questa è soltanto una sua grande immaginazione, perché io a vederlo così mi sembra un po' un ragazzotto poco sveglio. Ah. Per quanto riguarda quello che ha fatto, non sono minimamente stupito dal suo gesto, in quanto comunque è un gesto tipico delle persone insicure. E Pistorius, secondo me, fin da principio, cioè fin da quando è salito agli onori della cronaca, io l'ho sempre visto una persona fortemente insicura, perché ha sempre mentito sapendo di mentire, mentendo sul fatto che appunto lo parificavano a quelli che erano gli altri sportivi. In realtà nei 400 metri piani le sue protesi sono anche un vantaggio rispetto agli altri sportivi, che gli hanno permesso di arrivare dove è arrivato. Però lui non ha avuto mai il coraggio ammettere questo, e questa mancanza di coraggio io l'ho sempre vista come una mancanza in se stesso, che peraltro è tipica degli sportivi, diciamo, paralimpici. Maurizio, scusami, perdonami, ti si sente o non ti si sente? Insomma, un po' alternato, però ho capito cosa vuoi dire, anche se questi sono più elementi tecnici, se vuoi, cioè, cose di cui anche di psicologia un di po' si è discusso, scatto, se sì, mi consenti. Sì, si è discusso molto. In realtà non è che perché uno è un po' insicuro o vuole diciamo arrivare a certi livelli, a volte magari non in modo trasparentissimo, cioè non si arriva a picchiare, uccidere una donna. Questa invece è proprio una cultura maschile, lo sapete, a ogni latitudine. Non per niente vi dicevo che c'è stato questo grande evento planetario giovedì contro la violenza sulle donne, che è talmente diffuso a ogni latitudine, non conosce frontiere, e alla fine Pistorius, se effettivamente l'ha uccisa volontariamente, è un omuncolo come ce ne sono tantissimi altri, al di là delle protesi, delle gare sportive, eccetera eccetera. Però volevo andare un attimo, prima di sentire le prossime ascoltatrici e ascoltatori, all'800240024, sulla pagina Facebook, per esempio, rispetto al Papa. Beh, su Pistorius anche molti si sono espressi, e con appunto le loro sensazioni, le loro emozioni, qualcuno più colpevolista, innocentista, però per tutti insomma è stata una cosa pesante. Sul Papa, per esempio, Andrea dice: vivo un Papa, se ne fa un altro, diciamo, molto così, molto pragmatico. Michele dice: i Papi sono uomini con le loro debolezze, che è una cosa che alla fine penso anch'io. Emanuel: anche se sono agli antipodi come visione della vita, rispetto massimo per una persona, il Papa, che rendendosi conto di non essere all'altezza si dimette. Nico scrive: ma che fanno a gara a dirsi turbati i nostri politici? Effettivamente tutti hanno detto: sono sconvolto, sono turbato, ogni politico ha detto la sua. Massimo dice: un Papa poco flessibile, decisamente riluttante a piegare le regole della Chiesa alle mutate esigenze della politica, ma soprattutto poco utile ai poteri forti, quindi dice che insomma era stato messo all'angolo, secondo Massimo. Maurizio scrive: peccato che Silvio sia già impegnato, che diciamo una cosa questa che hanno... Vabbè, senz'altro ci avrà fatto un pensiero anche lui. Che si sono rimbalzati molti anche su Twitter, su Facebook. Augusto: qualcosa sta per succedere. Nostradamus dice dell'arrivo del Papa Nero: oggi tutto è possibile, anche l'impossibile. Ma magari fosse un Papa Nero. Alessandro dice: lui non si sentiva più all'altezza, quindi ha fatto bene a dimettersi. Anche Maurizio inneggia il Papa Nero. Paolo scrive: la decisione è di una persona intelligente. Karin dice: fra un po' se ne fa uno nuovo, non cambia niente. Per Sergio dice che Monte e Casini fingano di essere turbati, candidati per prendere voti, lo ammetto e lo capisco, ma che lo dica quel comunista di Vendola, e fra non molto lo dirà anche Bersani, non lo ammetto, quindi fa una questione politica. Rosanna scrive: penso che persino il Papa si fa da parte, ma solo lui no, lui uno si può immaginare. Danilo dice: non si scende dalla croce come molti credenti hanno detto. Armando: avere il coraggio delle proprie azioni, se lo farà avrà i suoi buoni motivi. Giovanni e poi Danilo, che ricordo anche Papa Wojtyla, Raffaele, insomma ci sono tantissimi commenti, vi ho dato giusto qualcuno, poi c'è la pagina Facebook, non ci sono più le mezze stagioni, se volete continuare a commentare o vedere gli altri commenti. Giampaolo da Casale di Monferrato, sono curioso di sapere che sta facendo. Sono convocato. Sei convocato, Giampaolo. Innanzitutto complimenti a te per la trasmissione, la radio, e a De Carlo per il suo lavoro di scrittore. Grazie, sei molto cortese. Sì. Rispetto a lui volevo semplicemente dire che la penso in maniera diversa, opposta. Su cosa? Nel senso che credo, su cosa? In merito al Papa. Mm. In merito al Papa. Come la e pensi? Credo che sia stato un gesto di semplicità umana e di grande saggezza. Lui secondo me si è sentito un po' debole, un po' in difficoltà, sia fisicamente che per il contesto in Vaticano che si era creato, e ha rinunciato perché si è trovato un peso forse troppo grosso, troppo oneroso, e l'ha umanamente messo da parte, ha preferito servire dal suo punto di vista Gesù in maniera diversa. Può essere una buona lettura anche questa, Giampaolo. Vedi, abbiamo tre, io sono più vicino, diciamo, neanche tantissimo. Per me è un gesto di libertà e di coraggio, dicevo all'inizio, al di là poi di quello che farà poi il Papa. Per Beh, il fatto De Carlo, che poi all'origine ci sia una situazione evidentemente insostenibile, certo, dentro il Vaticano, certo, non c'è dubbio. Certo, questo l'abbiamo capito, le trame, anche l'ambizione sfrenata che c'è anche naturalmente all'interno tra le fila delle gerarchie ecclesiastiche, su questo mi sembra che non ci sia più nessun dubbio. Sarà molto interessante non solo vedere l'esito delle votazioni in Italia politiche, ma anche di ma vedere anche San, no? Pietro, vedere cosa succederà lì. Abbiamo ancora dei momenti molto coinvolgenti, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Chissà cosa scrive, cosa ispirerà Andrea De Carlo adesso, un prossimo nuovo libro tra meteoriti e Papa che si dimette, pistole, ce n'è di materiale, vero, se uno, un'infinità sì. E se questo libro, diciamo, è mastodontico, immagino quale enciclopedia potrebbe scrivere poi. Quindi se prendete il libro di De Carlo, Villa Metafora, avete da leggere, diciamo, da qui a forse ottobre. Cioè, guarda, ho fatto un test di... anche su persone vicine che di solito leggevano il mio libro, i miei romanzi, in una settimana. Si leggono abbastanza velocemente. Questa volta cominciano a impiegarci chi un mese, chi due. Sì, il che va benissimo, era nelle mie intenzioni, volevo, volevo che ci fosse, cioè la mia sfida era anche di dire: prendetevi il tempo di leggere, in un mondo in cui tutti dicono non ho tempo, e poi invece il tempo viene buttato in un sacco di cose secondo me stupide a volte. Vale la pena anche dare spazio a una cosa importante potenzialmente come leggere. Come lettura, che è un dedicarsi a se stessi, prima di tutto. Angela da Catania, la sentiamo dopo, perdonami Angela, perché adesso abbiamo un appuntamento che non possiamo assolutamente evitare. Questi tre minuti di Porcellum con il nostro Giuseppe Busia, esperto di diritto costituzionale. Caro Giuseppe, senti, allora in questa puntata siamo già verso le elezioni, anche con la prossima, vogliamo spiegare la differenza del votare per la Camera e il Senato, anche per quelle che poi sono le funzioni. L'altra volta abbiamo detto quanto il Senato sia in bilico, quanto insomma le regioni contino i voti che ci saranno per le grandi regioni, Lombardia, Campania, Sicilia, ma adesso diciamo anche un po' le funzioni diverse che hanno, quindi cosa si va a votare? Sì, si vota appunto per il Parlamento, che è composto da Camera e Senato. Camera e Senato in realtà non si differenziano quasi per nulla in termini di funzioni, fanno sostanzialmente lo stesso mestiere, e per questo il bicameralismo perfetto, no? Si dice. Sì, il bicameralismo perfetto. Sono due camere che fanno esattamente lo stesso mestiere, le differenze sono minime, ma riguardano soprattutto la composizione, mentre invece diciamo le funzioni in sé sono le stesse. Innanzitutto approvano le leggi, il Parlamento naturalmente, noi eleggiamo e eleggeremo i soggetti che devono approvare le nostre leggi. Questo è vero sicuramente, anche se il ruolo del Parlamento negli ultimi anni, anche nello scrivere le leggi, si è ridotto, perché è aumentato quello del governo, nel senso che il grosso dei progetti di legge sono proposti su iniziativa governativa, il governo che li propone, o addirittura sempre più spesso, con sempre maggiore ampiezza, è il governo che approva i decreti legge, che sono delle leggi urgenti che entrano in vigore immediatamente, il Parlamento è chiamato a convertirli entro 60 giorni e spesso sotto il ricatto, fra virgolette, della questione di fiducia, cioè il governo dice o approvi oppure cado io, ma sostanzialmente cade anche tu. E l'altro mestiere fondamentale, proprio in sintesi delle due Camere, è quello del, diciamo, dare la fiducia al governo. E quindi all'inizio della legislatura, noi subito dopo le elezioni vedremo la discussione tra i partiti, se ne discute già ora ovviamente, pur non sapendo quale sarà l'esito della legislatura, ci sarà la formazione del governo, ci sarà un voto di fiducia, ovvero si potrà avere, in certi casi si può avere sempre la minaccia, l'arma che il Parlamento conserva in qualche misura è quella della sfiducia. Però ecco, sostanzialmente Camera e Senato fanno lo stesso mestiere e quando approvano le leggi, e questa è la navetta che deve esistere fra Camera e Senato, non si riesce, non si può approvare una legge se non nello stesso identico testo da Camera e Senato. Se uno cambia una virgola deve tornare all'altra Camera, e questo è da un lato una garanzia, dall'altro si dice una garanzia di lungaggini, diciamo. Quindi rallentamento. Grazie mille Giuseppe Busia, sabato prossimo. Grazie. Ciao, ciao. Giuseppe. E al numero verde 800 24 00 24 sentirei, aspetta ancora un attimo, Angela, scusa, è arrivata una notizia, per dove continua a rimandare, ma è arrivata un'agenzia dell'ANSA che dice Favia, lo sapete, quello che è stato espulso da Grillo, dal partito, dal movimento, perché era andato in televisione e diciamo che aveva anche detto delle cose un po' fuori onda, da oggi dice smaschero, una balla al giorno di Beppe Grillo. Che dirà Andrea? Eccellente, all'inizio sembrava invece così restio a dare addosso al suo ex leader o portavoce, non lo so, vediamo. È proprio una campagna elettorale senza esclusione di colpi, come si dice. Angela, scusami, Angela da Catania, finalmente. Ciao, sono Angela, sì, quindi... questo è chiaro. Niente, volevo dire qualcosa a proposito dell'ultimo commento che ho ascoltato poc'anzi alla radio. Sì. Per quanto riguarda il ponte di Messina, la prima cosa che faranno è il ponte di Messina. Io dico a questi signori, per non dire una brutta parola, che no, smettino di prendere in giro la gente. Io sono siciliana, ma mi vergogno di essere non solo siciliana, di essere anche italiana, perché l'Italia è un paese troppo corrotto e la devono finire di dire cose che non c'entrano, sono tutte bugie, capito? Bugie, spero che la paghino, perché io ancora piango la morte di Borsellino e di Falcone. Questo io non glielo perdonerò mai agli italiani, perché l'Italia non è libera e non è neanche unita. L'Italia è con il culo appuntita, vogliono la secessione e parlano del mezzogiorno, di questo e di quest'altro, ma chi vogliono imbrogliare? Quando la smettono? Angela, ti ringrazio, piuttosto arrabbiata. Angela, sentivo anche in sottofondo qualcuno che non ho capito se la voleva calmare o alzarla, insomma, non era chiaro. E Andrea De Carlo, c'è stato un allarme dei dentisti in questi giorni che hanno detto, proprio rivolto ai politici, attenzione, perché gli italiani sono talmente stressati dalla crisi che soffrono di bruxismo. Cioè digrignano la notte i denti e rischiano di rovinarli. Secondo te digrignano i denti perché sono tesi durante il giorno, la crisi, come faccio ad arrivare a fine mese, come faccio a mantenere i figli, troverò un lavoro o non lo troverò, o digrignano i denti, sai come fanno i cani o gli animali? Perché vogliono azzannare. Nei confronti della classe politica, dirigenziale. Secondo me c'è di un desiderio paese. Pazzesco, incredibilmente diffuso, credo quanto mai, proprio di liberarsi di una banda di, oltre che di disonesti, di corrotti, e giustamente si sente il livello di indignazione in una voce come quella dell'ascoltatrice che ci ha chiamato prima. Senti proprio questa rabbia fisica ormai, no? L'insofferenza proprio di chi vuole liberare la casa, prendere una scopa e spazzare fuori l'immondizia. E credo che si tratti di trovare una strada con cui uscire, una porta da cui uscire. E questo è il problema. Potrebbe essere una porta di Villa Metafora, per esempio? Chissà, potrebbe, ma quello è una specie di piccola rappresentazione in scala del mondo che vedo intorno. E era di questo che volevo parlare. C'è un'ascoltatrice sulla pagina Facebook, poi le altre me le leggo dopo, Paola Paolina, che dice: magari il Papa ha perso la fede e non ce lo vuol dire. Questa sarebbe veramente una roba deflagrante. Ma per ora, per il momento, però, in un mondo senza mezze stagioni, anche questo sarebbe potrebbe possibile. Potrebbe essere possibile. Grazie Andrea De Carlo, grazie a voi ascoltatori e ascoltatori. E da Roberta Giordano, sereni orizzonti a tutti.